Mi fa male l'intestino, se ripenso a tutto quanto. Facciamo due tiri a testa, alla finiamo subito. Tu vorresti scappare di qui, o di tutto il tuo ambiente. Ma non serve scappare da casa, se il problema è in te. E non c'è più nulla da dire. Potevi darmi tutto quanto e non l'ho meritato. Camminavi sola, io non ti cercavo. Tu se va male sei una matriosca, tolta una pelle ne è un'altra nascosta. Io mi ritrovo con gli organi esposti, quando nei tuoi silenzi cerco una risposta. Non c'è più